L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'Altra Europa. Siamo insieme anche in queste puntate estive, come sempre, per raccontare l'Europa da tanti punti di vista diversi, soprattutto l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Puntate speciali queste di agosto, puntate che sono interamente dedicate a dei singoli temi. Oggi parleremo di mobilità, parleremo del viaggiare, parleremo dell'Europa come grande palco dove poter fare esperienze di formazione, esperienze professionali e non solo. Le coordinate per trovarci anche virtualmente: euronetplus.eu, che è il portale del network al quale apparteniamo, tanti reportage, tante inchieste in tante lingue diverse, il nostro sito radio24.it, da dove poter scaricare il podcast e trovare tutti gli europostit e i contributi extra del nostro programma, e ancora invece i nostri social Twitter e Facebook, chiocciola Federico Taddia, chiocciola Euronet Plus R24, le nostre bacheche digitali dove trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi quindi viaggeremo tanto e si parte con un film. My concept of home, it's changing. Has changed. Lungo le strade bianche, periferia di altre stagioni calde, da qualche parte. Da qualche parte del giorno qualcuno sta partendo, da qualche parte in un parcheggio qualcuno sta dormendo, mentre il cielo gira e ti domandi dove sia, dove sia. Da qualche parte del tempo Giulio Verne sta nascendo, da qualche parte nel cielo un astronauta sta tornando, qualsiasi cosa stia. The entire world is gathered, at least one piece of the entire world is gathered here in Istanbul. Sette città: Lisbona, Valencia, Bordeaux, Berlino, Praga, Roma, Istanbul. Sette studenti, sette vite racchiuse in 24 ore. Queste sono gli ingredienti di un film documentario, si chiama Erasmus 24/7, realizzato dal collettivo Zero, composto da Nicolò Falsetti, Stefano De Marco e Alessandro Grespan, tre all'epoca studenti, tre colleghi, tre amici che si sono incontrati, hanno scelto di raccontare di fatto la propria generazione, dando sette volti, sette facce a questa narrazione. Con noi Alessandro e Nicolò. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao Nicolò. Ciao. Allora Nicolò, come mai l'esigenza di fotografarvi di fatto attraverso queste sette storie? Beh, in realtà nasce molto da Stefano, perché aveva fatto l'Erasmus da poco e cercando non aveva trovato nessun documentario su quell'esperienza. Io non ho mai fatto l'Erasmus invece, ma ho sempre voluto vivere e stavo vivendo a Londra in quel periodo. Avevamo iniziato a lavorare insieme da poco e ci siamo chiesti perché non farlo in realtà. Alessandro, raccontare studenti Erasmus cosa significa? Significa raccontare un pezzo d'Europa? Significa raccontare un pezzo vero, reale, autentico di quella generazione, o significa raccontare altro ancora? Ma sicuramente è un pezzo d'Europa vero e vivo, e mi viene da dire forse tra i più importanti e il più reale, nel senso che è proprio in queste relazioni, in queste amicizie, in questi ragazzi da stati diversi che condividono appartamenti scraudi, sporchi, cucine da sistemare, lezioni universitarie, ma anche feste dalla mattina alla notte, che in fondo si sta formando forse un'identità europea, cioè ben distanti da Bruxelles o dal Parlamento Europeo, dai luoghi più istituzionali, è forse proprio lì che stanno nascendo legami sovranazionali, quindi è davvero una parte reale dell'Europa. Mm-hmm. E Alessandro, avete scoperto o raccontato qualcosa che non si sapeva o che non sapevate di questa generazione? Ma probabilmente sì, come succede spesso, credo, in questi percorsi, questi viaggi documentaristici, si va con un'idea e poi si è anche aperti a trovare cose nuove, cose che non ci si aspettava. Mm-hmm. E quello che abbiamo trovato noi era una cosa che forse all'inizio ci sembrava in contraddizione con il viaggio che ci immaginavamo, cioè ci immaginavamo sette città diverse, sette culture diverse, sette volti, invece ci rendemmo conto, ricordo proprio forse l'ultima tappa a Istanbul, iniziando a fare un resoconto prima di iniziare con la fase di montaggio, ci rendevamo conto di come questi ragazzi, provenendo da parti diverse, facevano cose molto simili, vivevano le loro giornate in modo simile, e quindi appunto ciò che trovavamo in quei giorni, in quelle ore di montato, era l'idea di, invece di raccontare sette giornate, sette identità, raccontare una sola grande, lunga, estesa giornata che andava dall'alba alla notte, di quasi un singolo studente Erasmus che racchiudeva un po' tutti. Certo. Nicolò, qual è la città più europea tra quelle raccontate, secondo voi, secondo te? La città più europea, secondo me, ma sono condizionato dal fatto che quando ci abbiamo girato ci stavo vivendo, è Berlino. Ok. Nel senso che riesce, anche soprattutto per il punto di vista giovanile, o usando un termine un po' inflazionato, generazionale, è una città molto indicativa, una città dove si vive con poco, una città dove è veramente inquietante la presenza di giovani e la quasi assenza di persone e più in là con l'età, quindi una città che in cui ci si integra molto facilmente con la comunità locale, ma in cui tutto quello che è, diciamo, importato diventa in qualche modo un valore aggiunto, quindi secondo me è una bella città simbolo per quella che è questa identità europea che in qualche modo sta nascendo. Erasmus 24/7, il documentario si può trovare su YouTube, zerovideo.net invece il sito di Alessandro, Nicolò e Stefano, appunto, con i loro prodotti e le loro attività. Grazie e buona estate. Grazie a voi. Grazie a tutti. Adesso un Europostit e ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Scambi europei. Racconta la tua storia su hashtag Europa in valigia. Sei appena tornato da un bel viaggio? Oppure sei ancora in movimento e non vedi l'ora di raccontare la tua esperienza all'estero? Sei stato in Erasmus? Hai fatto un volontariato internazionale o uno scambio culturale? O hai semplicemente deciso di trasferirti e costruirti un futuro diverso? Se la risposta a una di queste domande è sì, allora anche tu appartieni alla generazione hashtag Europa in valigia. L'Associazione Scambi Europei ha creato uno spazio sul suo portale dove tutti i giovani avventurieri possono condividere la loro esperienza di mobilità. Vai su scambieuropei.info e cerca l'iniziativa Europa in valigia, preceduta da hashtag. Segui le istruzioni per pubblicare le avventure, le emozioni e le sensazioni dei paesi che hai visitato, delle persone che hai conosciuto e le foto dell'esperienza e condividerle così con tutti i tuoi coetanei europei. L'altra Europa. Now I'm turning down with my hands. agosto le università sono chiuse, quindi non si può parlare di Erasmus. Questo così era un po' un pregiudizio che avevamo. Ci siamo messi alla ricerca invece di chi anche in queste calde giornate sta vivendo il suo Erasmus. E vi stiamo portando in Giappone, precisamente a Fukuoka, nel sud del paese, con Chiara Gagliardi, studentessa di ingegneria ambientale. Si laureerà a dicembre presso l'Università di Padova e andiamo a scoprire appunto perché è là. Ciao Chiara! Ciao! È agosto, è festa, cosa stai facendo in Giappone? In realtà qui in Giappone non è festa perché si lavora sempre tanto, cioè una settimana di vacanza ad agosto, però diciamo che i ritmi lavorativi qui sono un po' diversi, quindi in realtà in Giappone sto lavorando. Allora, tu hai già fatto un anno, hai già fatto un periodo, un Erasmus a Stoccarda e poi hai trovato questo Erasmus fuori dall'Europa, giusto? Sì, ho fatto 6 mesi a Stoccarda l'anno scorso. E sai, quando si è fatto l'Erasmus una volta, non ci si riesce più a fermare. Quindi avevo voglia di fare un'esperienza appunto al di là dell'Europa, avevo voglia di vedere un altro continente. E poi mi si è presentata questa occasione di andare in Giappone, che ovviamente non ho potuto rifiutare, e quindi eccomi qui adesso. Il Giappone l'hai scelto tu, è un vecchio amore? Sì, il Giappone l'ho scelto io, diciamo che è stato un miscuglio fra caso e volontà mia di venire qui. E anni fa ho cominciato a leggere tanti libri di letteratura giapponese, ho letto libri di Murakami, di Mishima, e mi ero già detta, ok, io devo venire in Giappone, e avevo già deciso che sarebbe stato il mio viaggio di laurea. Poi in realtà mi hanno offerto l'opportunità di fare la tesi qui e quindi ho pensato, vabbè, è destino, evidentemente dovevo finire qui. Chiara, intanto abbiamo detto, è un bando dell'Erasmus Plus oltre l'Europa, ma lì lo conoscono l'Erasmus? Ci sono esperienze simili? Allora, ci sono dei bandi per studiare all'estero per pochi mesi di solito, l'Erasmus qui non è molto conosciuto e non è nemmeno così comune come da noi. Noi in un certo senso, quando ci prepariamo a fare un Erasmus in Europa, ci arriviamo pronti, perché comunque conosciamo già il bando, abbiamo già ricevuto le esperienze di altri ragazzi, riusciamo a parlare inglese e magari anche un'altra lingua. Qui invece le esperienze all'estero stanno cominciando più o meno in questo momento. Ci sono studenti internazionali anche qui a Fukuoka, credo che aumenteranno molto nei prossimi anni. Però per il momento è ancora, chi va a fare un periodo all'estero è ancora un caso abbastanza isolato. Ok, quindi l'appartamento Erasmus non c'è ancora tra i grandi stereotipi giapponesi, diciamo questo. Ancora no, però prevedo che negli anni prossimi crescerà. Di cosa ti stai occupando? Io studio ingegneria ambientale all'Università di Padova e mi occupo in particolare di gestione dei rifiuti e dell'inquinamento. E qui sto studiando la gestione post-operativa delle discariche, ossia quando si chiude una discarica e i modi di gestire l'inquinamento residuo che può arrivare dai rifiuti. Mm-hmm. E immagino che insomma sia un'esperienza sia formativa ma soprattutto personale importante, se non addirittura dirompente. Quali sono le cose che più ti stanno colpendo di questa esperienza? Sì, sicuramente dal punto di vista personale è un'esperienza molto forte. E io sono arrivata qui e mi ci è voluto un mese, diciamo, per abituarmi a tutti i cambiamenti che il Giappone ha portato. Sembrano piccole cose, però l'orario diverso, il cibo diverso, anche il modo di rapportarsi delle persone è diverso. E quindi credo che sarà un'esperienza che mi insegnerà tanto e che mi sta facendo capire come dall'altra parte del mondo ci sia proprio tutto un altro modo di vedere le cose che magari noi in Italia non ci immaginiamo nemmeno. Per i tuoi colleghi giapponesi sei un'italiana o sei un'europea? Sono, beh, prima di tutto una straniera, poi credo prima un'italiana, perché comunque insomma gli italiani all'estero si riconoscono sempre e sto cercando insomma di portare anche un po' di spirito italiano. Ho provato a cucinargli una pasta, ad esempio, sto provando un po' a esportare la cultura italiana, a condividerla con loro. Com'è andata con la pasta? Bene, bene, non ho potuto fare niente di troppo complicato per mancanza di mezzi, però mi sembra che sia piaciuta. Grazie davvero Chiara, complimenti per la tua esperienza, magari ci risentiamo più avanti così ci racconti poi anche il ritorno. Buona estate! Grazie, ciao a tutti! Optima Erasmus Interview. Welcome to Optima Erasmus Interview, I'm Dario Rizzo, today we are at University of Reading with Joe Upton. Hi Joe. Hi Dario, how are you doing? Can you introduce yourself? Yeah, so I'm Joe, I'm a student at Reading University, I'm also a barman on the uni bars, and I've got UniChef as well. What's UniChef? UniChef is my YouTube channel. It's a cooking channel for students designed to give them quick, easy and cheap meals. What's your favorite dish? My favorite dish has ancora to be... Europa e mobilità, ancora Europa ed Erasmus, ancora possibilità di raccontare, narrare questa esperienza. Lo facciamo attraverso un premio, attraverso un concorso, si chiama Optima Erasmus, è lanciato da Optima, che è un'azienda che si occupa di energie e telecomunicazioni, che lancia questo concorso, un sociality, una sorta di risposta provocatoria ai reality, chiedendo agli studenti Erasmus di raccontarsi utilizzando soprattutto le piattaforme web. Quest'anno ha vinto Dario Rizzo, studente in magistrale in banca e finanza all'Università di Siena, che è da poco tornato dalla propria esperienza a Reading in Inghilterra. Ciao Dario. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto complimenti. Come è stato fare l'Erasmus nell'Inghilterra pre-Brexit? Allora, diciamo che è stata un'esperienza abbastanza singolare, sì. Anche perché stando lì si è avvertito pienamente il disorientamento degli inglesi stessi. Da una parte gli studenti che erano per il Remain, dall'altra parte magari più anziani, più adulti, per andare via. Infatti poi i risultati sono stati proprio questi. Quindi è stato un clima particolare. Magari il mio Erasmus in Inghilterra sarà anche l'ultimo, perché non si sa come andrà il programma Erasmus di seguito alla Brexit. Certo, adesso insomma speriamo di no, però ci saranno sicuramente cambiamenti. E Dario, hai vinto, come mai? Qual è stato? Cosa hai scelto di raccontare e come hai scelto di farlo? Allora, innanzitutto è stata un'esperienza fantastica. Io sono appassionato di storytelling, video, foto, quindi per me è stato qualcosa di naturale, diciamo. Quindi ogni giorno io ho raccontato la mia avventura e ho cercato fin dall'inizio di informare e di coinvolgere i miei amici, i miei conoscenti. Quindi non è stato un richiedere i voti agli amici per poter arrivare alla vittoria finale, ma è stato un viaggiare, un partire tutti insieme e godersi questi mesi di studio, di vacanza, tutti insieme. Dario, ma si riesce a far passare il cuore dell'esperienza Erasmus, ovvero gli amici, i parenti, che a casa, tu hai usato la parola vacanza, c'è un po' l'idea che uno si avvia anche per studiare, ma soprattutto per... divertirsi, una grande gita? Guarda, è molto difficile spiegarlo prima di partire, durante e soprattutto quando poi si ritorna a chi non conosce pienamente il senso del significato di questa esperienza. È veramente molto difficile, soprattutto con i coetanei, figuriamoci poi con gli adulti, con i genitori. Quindi il più delle volte è vista, come hai detto tu, appunto come una vacanza, come una perdita di tempo. Però io sinceramente posso dirlo personalmente, è stata un'esperienza che mi ha aperto gli orizzonti. Cioè io oggi guardo al mio destino, al mio futuro, non come cittadino italiano, ma come cittadino europeo e del mondo. OptimaItaliaErasmus.com è il sito del concorso, ci sarà anche una prossima edizione. Il premio in cosa consisteva? Allora, diciamo subito che tutti e sei gli studenti sono stati selezionati, io e i cinque compagni di viaggio abbiamo tutti vinto la possibilità di accedere a uno stage formativo, uno stage sempre relativo al nostro percorso di studi. In più io, che sono stato il vincitore, avrò diritto a un'esperienza formativa ancora più qualificante, ovvero in base ai miei percorsi di studio e alle mie esperienze potrò richiedere ad Optima un'esperienza formativa ulteriore. Lo scorso anno il ragazzo che ha vinto studiando scienze politiche ha avuto la possibilità, grazie al supporto di Optima, di fare un master in America, a New York, presso l'ONU, per esempio. Ok, quindi insomma anche tu avrai una possibilità simile, quindi... Sì, io ancora non ho ben chiare le idee, però sicuramente sarà molto importante il supporto di Optima e questo premio per il mio futuro. Complimenti Dario, insomma credo che insomma, nelle tue parole ci stia tutto il cuore di questa iniziativa, ma anche cosa significhi fare proprio un'esperienza come l'Erasmus. Vi ricordo ancora il sito optimaitaliaerasmus.com e in bocca al lupo per tutto, ciao Dario. Grazie, ciao. Adesso un Europostit, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. European Pact for Youth. Cerchi o offri uno stage nuovo e di qualità? CSR Europe e la Commissione Europea hanno avviato l'iniziativa European Pact for Youth, che attiva 10.000 nuovi partenariati pubblico-privati al fine di creare 100.000 stage, tirocini, prime esperienze di lavoro, ma anche programmi di mobilità formativa e professionale e progetti di apprendimento formale e non formale. L'iniziativa si rivolge a imprese private e parti sociali, organismi di educazione e formazione, servizi per l'impiego pubblici e privati, insegnanti, educatori, studenti e genitori. L'obiettivo è creare opportunità nuove per chi è alla ricerca di bravi tirocinanti e per i ragazzi interessati a intraprendere un tirocinio. Per saperne di più, consultate il sito csreurope.org/pactforyouth. L'altra Europa. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world. Siamo ancora sulla strada in questa puntata dell'Altra Europa. Buon sabato ancora da Federico Taddia. Stiamo parlando di mobilità, stiamo parlando di formazione, stiamo parlando di esperienze all'estero e lo facciamo soprattutto attraverso le storie, che è una delle caratteristiche del nostro programma. Storie come quella di Enrico, uno studente che ha fatto l'Erasmus ad Oslo, il tirocinio a Lisbona, una tesi in Brasile, il dottorato in Albania, partirà per Barcellona e ora lo stiamo trovando in Ghana perché sta aiutando alcuni colleghi in un workshop. Diamo il benvenuto a Enrico Porfido. Ciao Enrico. Ciao, buongiorno Federico. Tu sei un dottorando in architettura, qual è l'oggetto che più ti simbolizza? Lo zaino, il trolley, in cosa ti identifichi? Direi lo zaino che mi ha accompagnato in tutti questi viaggi. Cos'è per te la mobilità? Cosa ti spinge a fare e a rifare questo zaino e andare a vivere esperienze altre? Ecco, diciamo che lo zaino rappresenta un po', come dicevi, il mio stile di vita, il mio simbolo, il modo per viaggiare, trovare nuove, per conoscere nuove persone, esperire nuove culture, e quindi è qualcosa che porta ad ampliare la tua formazione, diciamo, ad aumentare la tua conoscenza e allo stesso tempo a viaggiare il mondo, che è una cosa fondamentale. Mm-hmm. Enrico, cosa ti ha spinto partire la prima volta? La prima volta, che non è stata la più facile, anche se uno pensa sia la volta più bella, è stata un po' la voglia di conoscere altre scuole di architettura, altre metodologie, altri approcci progettuali, e quindi sono finito a Oslo. Uh-huh. Conoscevo un tuo collega che poi si era specializzato nel ghiaccio come materiale di costruzione, faceva l'architettura in ghiaccio. Hai seguito anche tu lo stesso percorso? No. No, ecco, diciamo, Oslo si è limitato soltanto dal punto di vista di metodologia a insegnarmi tantissimo, poi sono tornato nei paesi più caldi. Enrico, ma uno poi cosa porta a casa al di là della voglia di ripartire? Nel senso, si riesce a contaminare poi anche il proprio ambiente di studio? Si riesce a trasmettere ai colleghi quello che si è acquisito andando a vivere questa esperienza? O è una cosa che appunto rimane solo dentro il proprio zaino e poi torna con sé quando si riparte? No, direi che è fondamentale, cioè decisamente sì, quello che cambia è all'interno di te stesso in primis, e sicuramente riesci a trasmetterlo agli altri, perché anche se magari in modo inconscio, involontariamente, le conoscenze che acquisisci le trasmetti per forza sul tuo lavoro. E quindi sì, direi che si vede, non è una cosa che rimane solo al tuo interno. Magari, come dicevo, può essere inconscia, ma dal modo di progettare, ma anche al modo di vivere, cambia completamente e rimane parte di te e lo trasmetti agli altri. Oslo, Lisbona, Brasile, Albania, qual è stata la tappa che ti ha cambiato di più? Ah, direi, sai che non te lo saprei dire, forse il Brasile, ma probabilmente semplicemente perché stavo facendo la ricerca per la tesi ed ero più libero anche dalla scuola dove ho lavorato, e quindi dove ho potuto sperimentare la mia maturità anche progettuale. Mm-hmm. La prossima tappa, se ho capito bene, è Barcellona, per fare cosa? Io sto facendo un dottorato in Albania e quindi andrò 6 mesi a Barcellona per continuare il mio progetto di ricerca in un centro di ricerca della Politecnica di Barcellona. Uh-huh. E qual è il campo di studio in cui ti stai specializzando? Io lavoro sul paesaggio e il turismo, quindi come integrare il turismo all'interno del paesaggio senza danneggiarlo. Ok, se ti chiedessi di vederti tra 10 anni, dove sarai? Non ne ho assolutamente idea, è una domanda che mi fanno spesso, ma non sapevo dove potevo essere 3 anni fa, non saprò dove sono tra 10 anni. Probabilmente spero in Italia, ma dopo tante altre esperienze. Però insomma l'unica certezza è che lo zaino sarà sempre quello lì al tuo fianco. Sempre pronto. Un grazie Enrico Porfido, complimenti per la tua avventura universitaria e insomma in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille a te. Ciao, ciao, buon sabato. Ciao. Buona giornata. Looks like I pulled a fast one. Looks like I went to town. Looks like the world revolves around me. Looks like it's falling down. Thought I'd kick the traces. I thought the wheels would spin. I thought I'd jump fence and bolt it. Looks like I'm back again. I got my signals crossed. It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back. Get back with my wanderlust. Non solo gli studenti che fanno loro le opportunità, le occasioni di mobilità, anche i docenti per fortuna hanno la possibilità di vivere queste esperienze, di acquisire il proprio bagaglio di competenze. Il Politecnico di Bari, per esempio, ha conquistato il podio nel programma biennale International Credit Mobility, attivato all'interno dell'Erasmus Plus. Ne parliamo con la professoressa Anna Bruna Menghini, delegato del rettore per l'internazionalizzazione della ricerca del Politecnico di Bari, professoressa associata in progettazione architettonica. Buongiorno, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Cosa succede? Come mai al Politecnico di Bari si ha questa attitudine? Prima parlavamo di zaino, in questo caso forse di fare il trolley per partire. Sì. Beh, diciamo che è un'attitudine che ce la siamo conquistata da grandi, nel senso che sono ormai 2 anni che partecipiamo a questo giovane programma di mobilità internazionale con i paesi extraeuropei, che appunto è l'International Credit Mobility. E è un progetto che viene valutato dall'Agenzia Nazionale Erasmus, e con dei sottoprogetti relativi a singoli paesi, sempre comunque nell'ambito extraeuropeo. e sono 2 anni che riusciamo ad avere un buon, a conquistare un buon punteggio e quindi ad avere dei finanziamenti per una mobilità di docenti, studenti e anche importante staff amministrativo, personale. E questa mobilità la stiamo cominciando a svolgere, quest'anno l'abbiamo svolta in gran parte questa mobilità e fino al 2018 avremo una mobilità di docenti e di staff in uscita di circa 97 unità e in entrata di 100 circa 100 104 unità. Mm-hmm. Quindi è veramente tutti con il trolley al Politecnico. Si vive all'estero per periodi di che entità? In realtà è una mobilità molto veloce, molto che può andare dai 5 giorni ai 2 mesi. Mm-hmm. Si tratta di fare un'attività didattica all'interno dei corsi istituiti nelle varie istituzioni, partecipare a workshop. Adesso per esempio noi a settembre organizzeremo un workshop che coinvolgerà i docenti invece in entrata dai Balcani. Abbiamo pensato di invece di fare una mobilità così singola, no? Un po', diciamo, poco strutturata, di riunire invece quelle mobilità dei docenti che verranno dai Balcani in un unico evento che svolgeremo appunto a settembre a Bari, che sarà un workshop di progettazione. E in una settimana, ciascun docente rimarrà semplicemente una settimana, però questa sarà una bella occasione per creare una rete di rapporti, per consolidare dei partenariati già esistenti e per coinvolgere in questa attività anche gli studenti di Bari e gli studenti proprio dei Balcani, che cominceranno a fare da quest'anno la loro mobilità in Erasmus da noi. Mm-hmm. Professoressa, spesso ovviamente quando si parla di mobilità si pone l'attenzione soprattutto su chi parte, invece, come ci sta raccontando anche lei, c'è anche il discorso e l'esperienza dell'accoglienza. Qual è il valore aggiunto di appunto di ospitare studenti e in questo caso docenti di altre università? Sì. Beh, diciamo che sicuramente poi per questa specifica azione, come dicevo, questa International Credit Mobility che riguarda un target che è molto, ci sono i paesi extracomunitari, quindi come capirà bene, insomma, è molto complessa come, e anche molto ricca come esperienze, sia per i docenti che arrivano, che si confrontano con appunto i docenti locali, che anche gli studenti, quindi immaginiamo insomma questi docenti dei Balcani che stanno arrivando da noi e che la prima volta che loro possono accedere al programma Erasmus, quindi è veramente un valore aggiunto riuscire a strutturarli e integrarli nelle nostre attività didattiche. Mm-hmm. E anche per gli studenti è importante, adesso stiamo cercando anche di stimolare i nostri studenti ad andare in questi paesi, perché andare in Francia, in Spagna, in Germania è abbastanza semplice e anche appetibile, e invece dare attrattività a queste altre mete è un po' una sfida che noi ci siamo posti, e proprio l'obiettivo anche del programma Erasmus Credit Mobility, che vuole in qualche modo trasferire il sistema universitario europeo nei paesi extraeuropei, nei paesi europei che non sono nell'Unione Europea. No. Professoressa, è più facile convincere uno studente o un docente, un collega a partire? Ma sicuramente lo studente, perché i docenti sono sempre aperti a partire, poi loro riescono a imbastire dei programmi anche di ricerca, dei partenariati, riescono diciamo ad ampliare lo studente chiaramente è più legato alla sua esperienza individuale di studio, di esperienza insomma, di vita, no? Certo. Per cui è chiaro che più appetibili sono i paesi dell'Europa, più evoluti, più avanzati, diciamo nei luoghi comuni, per cui non è facile. Adesso noi in realtà nel Politecnico di Bari, in particolare il corso di laurea in architettura, ha dei buoni rapporti con l'Albania e il Montenegro, ma dei rapporti di studio, nel senso che noi abbiamo tanti studenti che vanno a fare dei progetti per i laboratori di laurea, sì, relativi alla, alla conoscenza, alla valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico dell'Albania, del Montenegro, per cui in effetti i nostri studenti sono preparati a... cioè sono stimolati, diciamo, ad andare in questi paesi perché c'è questo progetto di ricerca in atto, no? E quindi sanno quello che troveranno e sanno quello che devono andare a cercare, insomma. E questo lo vogliamo fare anche per gli altri paesi, considerando che noi abbiamo avuto i finanziamenti per, oltre che per i Balcani, anche per il, Israele, e per l'Algeria, mm-hmm, per la Russia e per il Cile. Quindi, quindi insomma, allargare le possibili, sì, mete. Esatto. Complimenti, esatto. Complimenti a lei, complimenti a tutto lo staff occupato in, e impegnato in questo bel programma. Buon lavoro, professoressa. Grazie, grazie. Grazie, la ringrazio. Arrivederci. Ci fermiamo noi, il traffico poi ancora qua, con l'altra Europa. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto, grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. L'altra Europa. I'm gonna write another traveling song about all the billion highways and the cities at the break of dawn. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing wrong and dream about a train that's gonna take me back where I belong. Well, now the ocean speaks and spits and I can hear it from the interstate. And I'm screaming at my brother on his cell phone, he's far away. Ancora mobilità europea e abbandoniamo la formazione, abbandoniamo l'università, abbandoniamo la scuola per andare a presentare altre possibilità di mobilità che sono più legate agli scambi cosiddetti culturali e al volontariato europeo. Ne parliamo con Desiree Peliccia dell'associazione Scambi Europei, scambieuropei.info, per conoscere questo portale aggiornatissimo con tante opportunità. Ciao Desiree, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Allora, intanto ricordiamo cos'è Scambi Europei. Allora, Scambi Europei, associazione che si occupa di promozione di mobilità per i giovani, quindi come già ricordato c'è il nostro sito su cui potete trovare tantissime opportunità sia di scambi giovanili sia di appunto servizio volontariato europeo, che sono le cose principali con cui, diciamo, l'associazione promuove l'idea di una cittadinanza europea aperta a tutti e da partecipazione attiva dei giovani. Ricordiamo la differenza sinteticamente dei due. Gli scambi europei solitamente hanno una durata minore, vero? Ed è una, sì, sorta di full immersion in una realtà diversa. Esattamente, gli scambi praticamente prendono dei gruppi nazionali da diverse nazioni di giovani su un tema comune e si sta una settimana, 10 giorni in una nazione a fare laboratori creativi insieme e insomma a fare tanto apprendimento interculturale e conoscere, fondamentalmente conoscere in senso lato del termine. E credo sia importante ricordare anche che, insomma, a parte la lingua che a volte è richiesta, non sono necessarie competenze particolari, sono veramente opportunità aperte a tutti. Sono assolutamente aperte a tutti. L'idea proprio del programma Erasmus Plus infatti è di supportare l'inclusione di chi ha meno opportunità, quindi magari chi può viaggiare di meno, piuttosto che chi viene da un ambiente rurale o anche di chi non conosce la lingua, perché i laboratori sono pensati proprio per far partecipare tutti quanti allo stesso modo, con tecniche abbastanza creative che quindi riducono il problema della barriera linguistica. Mentre lo SVE che cos'è? Lo SVE invece è il servizio volontario europeo ed è un'opportunità per fare volontariato all'estero. Per la maggior parte viene sviluppato tra paesi europei, quindi ci sono di solito due o più organizzazioni che fanno un partenariato e che mandano e accolgono volontari per un periodo di tempo. È aperto dai 17 ai 30 anni e può durare dai 2 ai 12 mesi. Esistono anche delle formule un po' più brevi, che sono sotto i 2 mesi, che sono diciamo il primo passo, un po' un aperitivo per il volontariato internazionale, che anche sono aperte a tutti, soprattutto ai giovani con minori opportunità. Quest'anno compie 20 anni, quindi insomma è un anno importante, migliaia di giovani che hanno vissuto questa esperienza. Desiree, c'è qualche progetto in partenza che magari può stuzzicare l'interesse di chi ci sta ascoltando? Allora, innanzitutto ricordo che sul nostro sito scambioeuropei.info, nella sezione SDE, viene pubblicata almeno una volta a settimana un'opportunità di partenza, perché noi promuoviamo anche per altre organizzazioni. Sì. Dopodiché, per quanto riguarda noi del team di Scambio Europei, abbiamo sicuramente in partenza uno SDE sulle tematiche della cittadinanza europea in Ucraina, che parte ai primi di novembre, però col fatto del visto e tutto, insomma, siamo già in tempi stretti, fase di ricerca. Sì. E dopodiché abbiamo uno SVE in Romania sul lavoro con i bambini per insegnare le lingue ai bimbi, e poi abbiamo in partenza ai primi di ottobre uno SVE a Cipro dentro un centro giovanile proprio per supportare la partecipazione dei giovani. Ok, quindi scambieuropei.info, comunque la bacheca dove potete trovare tantissime dritte, e come già ci ha detto Desiree anche c'è un aggiornamento continuo, quindi è veramente il luogo migliore per rimanere informati. Grazie Desiree, buona estate, grazie. Buon lavoro. Grazie, ciao. E noi andiamo a conoscere invece uno SVE in corso, chi ha fatto la scelta di vivere e donare un periodo della propria vita a un progetto particolare. Andiamo in Georgia con Francesca Abruzzese. Ciao Francesca. Salve, buongiorno. Siamo un collegamento via Skype, ti sentiamo un po' metallica ma ti sentiamo bene. E, Francesca, come mai hai scelto di andare in Georgia e cosa stai facendo? Diciamo che è stato un po' per caso che sono finita qui. Ho conosciuto le ragazze all'interno della mia hosting organization in Italia e quindi mi avevano proposto attraverso Scambio Europei di prendere parte a questo progetto SVE presso il loro International Center for Peace and Integration. Per lo più l'organizzazione si occupa di progetti Erasmus, ma anche in attivo dei progetti di sviluppo locale, e ad esempio noi abbiamo collaborato con World Vision Georgia per fare dei laboratori di lingua inglese all'interno di scuole elementari che lavorano con bambini diciamo di diversi background. Mm-hmm. È un progetto di 8 mesi, è iniziato a gennaio, l'11 settembre si concluderà. Quanto ti ha cambiato? Devo dire tanto, perché ci sono state tante attività, tante esperienze che mi hanno portato ad essere più flessibile, a pensare in maniera creativa, a risolvere i problemi, e devo dire che è qualcosa di prezioso e che è molto importante al giorno d'oggi. E che cos'è la Georgia? Un paese che conoscevi, hai studiato prima di partire? Devo dire sì, ero un poco preoccupata per la lingua, e soprattutto perché nel Caucaso in generale è più frequente parlare russo che inglese, quindi ho studiato un po' l'alfabeto per non arrivare proprio impreparata. Anche se devo dire che l'organizzazione dà molto supporto e hanno fornito dei corsi di lingua per farci rientrare un po' nella comunità, ecco. Francesca, sei l'unica straniera che sta facendo lo SVE o ci sono altri volontari? No, c'è un altro volontario con me, sempre italiano, proveniente da Scambi Europei, però siamo solo noi due in questa organizzazione per il momento. Uh-huh. Esperienza che immagino consigli di fare ad altri giovani come te, e tu invece hai già pensato, una volta tornata a casa, in cosa tradurre questo periodo di SVE? Sicuramente mi ha dato molti spunti per la mia carriera futura, che spero di portare avanti nel project management per progetti di sviluppo locale, e indubbiamente mi ha molto avvicinato ai progetti di volontariato che spero di continuare una volta in Italia. Uh-huh. E Francesca, un'ultima domanda: quanta Europa hai trovato in Georgia? C'è voglia di Europa? Ti hanno chiesto? C'è curiosità? Sì, c'è molta molta voglia di Europa. Devo dire che ho trovato anche delle grandi differenze, e per alcuni versi la Georgia ricorda un po' quella che era l'Italia diversi anni fa, ma c'è tanta tanta voglia d'Europa, e tutte queste organizzazioni e gli scambi che stanno organizzando lo dimostrano, quindi sì, decisamente è un desiderio comune qui. Cosa ti mancherà della Georgia una volta tornata in Italia? Immagino questa flessibilità che hanno qui e la possibilità davvero di creare delle cose dal nulla, e da un giorno all'altro sono veramente in grado di creare delle cose incredibili. Grazie davvero a Francesca Abruzzese, complimenti per la bella esperienza che stai vivendo, e in bocca al lupo per queste ultime settimane. Ciao. Grazie. E termina qui questa puntata dell'Altra Europa, interamente dedicata alla mobilità. Radio24.it, come sempre, il sito da dove poter scaricare il podcast. Un grazie a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, e Pietro Lacorte oggi invece alla parte tecnica. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Se volete contattarci, la mail è l'altraeuropa@radio24.it. Vi ricordo invece che domani alle 9 sarò in onda sempre qui su Radio 24 insieme a Telmo Pievani con una nuova puntata di Terra in vista alle Olimpiadi spiegate a mio figlio. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.